caloroso benvenuto ai nostri ospiti. Buonasera. Per chi non conoscesse questa struttura, che è piccolina e un po' nascosta, la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta è nata 10 anni fa per integrare la raccolta, diciamo, di interesse locale prevalentemente della nostra provincia, e poi però anche per integrare le raccolte delle altre due biblioteche operanti sul territorio, delle due grosse biblioteche operanti sul territorio, che sono la Civica di Bolzano e la Tesman, che è qui vicino. Queste tre biblioteche nel giro di pochi anni confluiranno in un'unica struttura, che è il polo bibliotecario. Ecco, quindi al momento siamo in questa sede provvisoria, era doveroso che lo dicessi, in un edificio civile, ma in realtà più avanti avremo sedi, una sede più lussuosa anche, insomma, più piacevole e soprattutto più facile da raggiungere, perché non sarà più necessario suonare il campanello, ma si entrerà, si uscirà, come la nuova concezione delle biblioteche in Europa, che è quella di costruire delle piazze del sapere. Insomma, si entra, si esce, si usa internet con il wireless, e poi insomma si vedono i libri, si leggono, il libro non morirà. Ecco, questa è la grande notizia di questa sera, visto che siamo in tema di gialli, di morti sospette, il libro non muore, rimarrà ancora per qualche anno un oggetto indispensabile, e penso che continuerà la sua funzione. Accanto però ai nuovi media, noi qui abbiamo comunque delle postazioni internet, abbiamo del materiale digitalizzato, e vorremmo anche poi piano piano incominciare a lavorare sull'accesso ai libri elettronici o comunque anche agli audiolibri, che sono un nuovo servizio che potremo implementare presto. Per avere notizie di questa biblioteca, soprattutto delle iniziative che noi facciamo settimanalmente, perché crediamo che in questo modo possiamo far conoscere questa raccolta e soprattutto anche magari invogliare le persone a leggere i libri che noi acquistiamo e che mettiamo a disposizione, potete iscrivervi, è gratuito, ma basta semplicemente compilare un modulo, e poi via mail, una semplice cartolina, vi diamo informazioni di tutto quello che organizziamo, ecco, e i nostri orari di apertura, eccetera. Questa sera ringrazio Clambagio, che non è facile neanche da pronunciare, ecco, in realtà il signor Bianchetti, che presenta il suo primo libro, dal titolo appunto Fiori d'Italia, è un romanzo aziendale, abbiamo deciso così, benissimo, a me piace questa patina di giallo, di suspense, che comunque traspare già dalle prime righe, e devo dire anche molto avvincente, scritto in maniera fluida, ma cattura attenzione e si riesce a leggere tutto d'un fiatto. Saluto Maurizio Mazzotta, che questa sera ci accompagna, come altre volte ha già fatto, in maniera piacevole e professionale, nella moderazione e nella presentazione di questo libro. Io vi invito a tornare in questa biblioteca, perché per noi è importante, ecco, che si conosca anche il lavoro che facciamo e che vengano letti i libri che noi acquistiamo e che sul sito della nostra biblioteca vengono promossi e segnalati man mano che li acquistiamo. Ecco, vi ringrazio. Grazie. E buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Allora, qui comincio io? Comincia tu, sì. Allora, questa sera c'è questo libro, Fiori d'Italia, il destino gioca a dadi, che credo che il sottotitolo sia importante quanto, se non di più, il titolo stesso, di Clambagio, che è un acronimo, Claudio Amedeo Battista Giovanni Bianchetti, meno male che ho solo 4 nomi. È un romanzo che io ho già presentato una volta, l'ho presentato alle Cantine Gandolfi, e quando Claudio mi aveva chiesto questo piacere, e io ho pensato, ma che strano posto, in una cantina, vino, libri, poi in effetti mi era piaciuta molto l'idea, perché ho fatto questo parallelismo tra un buon libro e una buona bottiglia di vino. Si sorseggia pian piano, si gusta, poi quando si è finita magari hai voglia di aprirne un'altra e ricominciare, e lo stesso è con questo libro. Io ho avuto questa impressione, arrivata alla fine, di voler ricominciare. Per me questo è un romanzo circolare, È un romanzo a tutto tondo, diciamo. Intanto è scorrevolissimo, è scritto in maniera pulita e leggera, e quindi si corre avanti nelle pagine senza avere nessun senso di, anzi con una grande curiosità, non si ha un senso di pesantezza o di noia, è sempre molto interessante, si vuole sempre andare avanti. È un romanzo aziendale, questo il copyright è mio, ecco. È un romanzo ambientato negli anni 70 ed è un romanzo nostro, diciamo così, anche se è ambientato in tre luoghi differenti, cioè qui da noi in Alto Adige, cioè precisamente a Nales, a Milano e in Germania ad Inselsau, in Baviera, più specificatamente. E io vorrei così farti una domanda subito, se, siccome è un romanzo d'azienda, se queste tre dislocazioni per te, se il modo di vivere l'azienda tra, in questi tre luoghi è molto diverso, come l'hai ambientato tu? Perché la Germania sembra estremamente rigorosa e Nales sembra un pochino tirato a campà ogni tanto, no? Ecco, qual è la tua esperienza diretta, naturalmente, dato che tu hai dato questa ambientazione differente? Sì, l'esperienza è diretta, ma direi che è anche molto aderente alla realtà, in quanto in Germania negli anni 70 come anche adesso hanno un'alta concezione del lavoro, diciamo, e sicuramente anche la concezione è diversa da quella che è in Alto Adige, quello che può essere Milano, che è la capitale economica d'Italia, insomma. Infatti nel romanzo viene citata questa riunione del gruppo lombardo piemontese con una settantina di venditori, che è il gruppo più importante di questa azienda, dove il secondo protagonista, cioè quello che poi dopo deve sostituire il primo che muore al quarto capitolo, si trova a disagio perché si trova davanti a una platea di 70 venditori e, non sapendo parlare molto bene l'italiano, poi dopo si impappina e proprio succede quello che succede. Tu mi hai detto prima che è un romanzo circolare, in effetti la cosa è stata voluta proprio, ma ti dirò che il primo approccio che ho avuto con il romanzo, cioè quando l'ho scritto il romanzo, quando ho fatto proprio la prima stesura, il manoscritto, il primo manoscritto, l'ultimo capitolo non c'era. E poi dopo, pensandoci bene, anche su un suggerimento indiretto, ho pensato di chiudere il romanzo così come l'avevo aperto, ecco, con protagonisti diversi, anche se poi dopo il finale del romanzo non è così specifico, si lascia intendere che, ma potrebbe anche non essere, ma insomma si capisce che il secondo protagonista muore, decede. E quindi il romanzo comincia con un decesso, anche lo stesso prologo del romanzo, che poi dopo fa da antefatto il romanzo stesso, e poi dopo la fine e finisce si chiude con un presunto decesso, sì. La cosa interessante di questo libro è che a tanti di noi succede di prendere un libro in mano proprio per togliersi dal nostro ambiente, per assaporare ambienti lontani, suggestioni lontane, altri paesi, così. Questo libro ha un inizio che secondo me è fulminante, cioè, e sono poche righe che ti fanno già schiavo, non lo puoi mollare più, questo libro non lo finisci. Il libro inizia così: la scena che di prima mattina si presentò ai soccorritori sul luogo dell'incidente sulla statale Bolzano-Merano era terrificante. Località 7 querce. Ecco, qui uno salta, secondo me, perché dice: ma come 7 querce? No, sotto casa ci passo con la macchina, ci vado in bicicletta, così. Lì c'è questa impressione, è talmente reale la tua descrizione, poi, che c'è questa netta impressione di non aver letto sul giornale che cosa è successo. Ma come? C'è stato un incidente e io non l'ho letto, ed è un romanzo, però è talmente, veramente, ecco, e poi è sotto casa nostra. Non siamo abituati forse noi a leggere una cosa che ci riguarda così da vicino. E allora si cerca anche la curiosità, no? Si cerca il collegamento. A Nalles, negli anni 70, c'era la Fiork Italia e noi non sapevamo nulla, sapevamo che c'era una cantina dove si beveva dell'ottimo vino, dove si andava sabato pomeriggio. In questo modo si apre veramente un universo, un mondo particolare. Beh, io penso che, scusa, io penso che un romanzo quando lo si legge, cioè quando lo si scrive, intanto io non scrivo romanzo per gli altri, cioè voglio dire, lo scrivo perché mi piace scriverlo, eccetera, è evidente. Però è anche evidente che c'è sempre questo sottofondo di pensiero, no? Come viene recepito eventualmente quello che tu scrivi. Allora, se tu cominci il romanzo in un modo, diciamo, con un po' di suspense, no? Che uno dice le prime pagine le legge volentieri e vuole andare avanti, allora tu sai che magari il libro poi dopo ti prende. Perché se le prime pagine non ti piacciono, rischi di perdere sia la lettura che anche il lettore stesso. Cioè, quindi, però ti dirò che la cosa più difficile forse nel romanzo stesso, perché poi dopo il romanzo viene fatto come una costruzione, no? Parte da basso, ovviamente ci deve essere l'idea di fondo. Solitamente, almeno per quanto mi concerne, so com'è l'inizio e so com'è la fine. Ma importante è invece trovare poi dopo sempre dei motivi per cui il romanzo resti sulla corda, diciamo, sulla corda dell'attenzione, perché come in ogni... E quella è la difficoltà. È quella la difficoltà, perché qualche volta cadi nell'errore di trascinarlo, e allora poi dopo ci sono i capitoli, ovviamente non tutti i capitoli possono essere eccellenti, possono essere all'altezza di altri come suspense, eccetera, però ci deve essere anche qua un fil rouge, cioè un filo continuo, che tiene viva e desta l'attenzione, altrimenti uno si perde e succede che magari dopo 4-5 capitoli dici ma questa qua è una ciofeca e lo metti da parte e poi dopo non lo prendi più. Invece, come hai detto tu, bisogna, quando si legge il romanzo, dire il prossimo capitolo come sarà e come comincerà, e poi dopo cominci il prossimo capitolo, beh, leggo questo e poi dopo basta, poi dopo magari leggi quello che sono 5-10 pagine e cominci il prossimo. Infatti anche la stessa struttura che ho fatto del romanzo, ma che comunque è abbastanza comune, non sono pochi capitoli, in questo romanzo sono 30 i capitoli più il prologo, e quindi diciamo, a parte qualche eccezione, i capitoli mediamente hanno quelle 8, 10, 12 pagine, per cui da un capitolo all'altro tu salti anche abbastanza velocemente. Credo che tu non abbia problema della stanchezza del lettore dal momento che sei alla quinta ristampa? Sì, diciamo ecco, che ho avuto Non può esserci stanchezza, voglio dire, se il libro sta andando così bene, e sta andando bene in tutta Italia, bisogna dire, no? Sta andando bene solo da noi, perché vedo qui che insomma sì, ho avuto, ci stiamo allargando. Diciamo. Diciamo che il fatto è questo, che la casa editrice mi ha pubblicato, sono stato contento comunque che mi ha pubblicata, perché la casa editrice è seria, lo vedi anche da come è stato fatto il libro, cioè una carta fatta bene, cioè la brochure, tutto. Sono veramente stampato in modo eccellente, purtroppo però è una piccola casa editrice, ecco, poche persone, quindi sono di Torino, hanno un certo nome, tanto vero che poi dopo al Salone Internazionale di Torino, dove ho presentato il libro, è edito Seneca, ho dimenticato di dirlo, scusate, edito Seneca, sì, Seneca, il famoso filosofo, diciamo che il libro si vende, ma si vende soprattutto su internet e non tutti comprano su internet. Proprio oggi ho sentito l'editore, che è un ragazzo abbastanza giovane, mi ha detto che ogni giorno riceve degli acquisti, cioè delle domande acquisto per il libro, però sono le 10 copie, le 15 copie, le 30 copie, quello che... cioè non c'è la distribuzione. Oggi come oggi, non so se l'avete notato, ma il libro non si vende tanto nelle librerie, il libro si vende sull'autogrill, si vende sulle stazioni di servizio delle autostrade. Anche a me stesso è capitato di pensare, ma tu gli ultimi anni, Claudio, dove li hai comprati i libri? E ho comprato più libri all'autogrill o sulle autostrade che non in libreria. Infatti la grande distribuzione ormai è diversificata, e comunque anche su internet devo dire che c'è un certo movimento. Ed ora il libro, peraltro, fra 2 settimane, perché me l'hanno confermato oggi, verrà anche fatto in ebook. E allora su ebook c'è la Feltrinelli, c'è la Rizzoli, c'è la Mondadori, quindi anche se l'ebook oggi come oggi a livello, diciamo, italiano copre soltanto l'1,5% del mercato, però possono essere delle cifre che sono anche interessanti. È un mercato molto nuovo, diciamo molto così, nuovo. Quindi però è quello che è il mercato del futuro. Sì, cui è comunque un mercato pionieristico. La via giusta la stai facendo. Sì, penso di sì comunque, sì, anche sì. Perché è evidente che se il libro fosse magari stampato o comunque edito da una casa editrice più importante come può essere la Bompiani o la Marsilio o la Feltrinelli appunto eccetera, avrebbe tutta un'altra distribuzione, al limite, cioè, perché tu puoi avere anche un buon prodotto ma se non è distribuito nessuno viene a saperlo, nessuno viene a conoscerlo. Il personaggio principale che quello che io chiamo personaggio principale, poi magari per te non lo è neanche, però per me è il primo che si incontra, è quello il primo che sparisce, ma è il primo che non abbandona, cioè non abbandona mai questo libro pur non essendo più presente, non lo abbandona fino alla fine. E ha un nome che sinceramente è un impatto un po' così voluto e voglio sapere perché, perché l'ha chiamato Klaus Di Biasi. Sì. E voglio sapere come mai. Perché anche là volevo metterci dentro un piccolo segno del destino, no? Allora, di questo concorrente di questa ditta, questa Fiat Italia, il concorrente che si chiama, che è il titolare, appunto, il titolare, anzi il direttore di questa Basel, che stravede per il suo idolo che si chiama Klaus Di Biasi, no? Perché lui era un nuotatore provetto, aveva fatto anche le Olimpiadi nel 1956, eccetera, eccetera, eccetera. Se non che, cosa succede? Che proprio questo Klaus Di Biasi, no? Che ha lo stesso nome del suo idolo, rischia di rovinarlo. Allora che qua un piccolo segno del destino, è voluto solo quello. Esatto. Proprio voluto. Ma il vero Klaus Di Biasi non si è mai fatto sentire da te? No. Non è che gli hai mandato una copia? No. No, perché sarebbe anche interessante, ma tu pensa, no? Che io sono vicino di casa, non vicino di casa, vicino di casa di lavoro, diciamo, vicino al posto di lavoro dove abitiamo, dove lavoriamo noi. Il titolare di questa ditta, che si chiama la ditta Imperia, si chiama anche lui Klaus Di Biasi. Sono i funzionari di Klaus Di Biasi. Di Biasi, tra l'altro, è un nome abbastanza comune, soprattutto nella Bassa Tesina e nell'Oltradige, quindi Klaus è anche un nome abbastanza diffuso. Anche... Poi c'è un altro personaggio importantissimo, che vive anche una trasformazione, una metamorfosi veramente importante nel libro, molto rapida devo dire, sì. Che è Rascher, che è il direttore vendite, sì. Che è fantastico secondo me. Cioè, guardate, io vi dico, c'è una pagina 131 che è la cosa migliore quando si è giù di morale. Voi dovete aprire questa pagina 131 e leggere, perché lui parla, intanto è scritto tutto con la K, quindi sembrano gli sms dei nostri ragazzi, un po' allucinati così, e parla in una maniera assolutamente divertente, uno non può che sorridere, tirarsi su veramente alla funzione della Nutella, no? Uno si sente un po' giù, è fantastico, è veramente fantastico. Lui dice referato, dice come va, tutto con la K, dice anche ostia, con SCH, scritto naturalmente, che tu hai definito una bestemmia tirolese, che a me non sembrava, perché si sa che insomma, però tirolese mi sembrava qua. Fuori dall'Alto Adige, perché noi siamo abituati a questi personaggi che parlano un po' così, li prendiamo anche in giro noi e... Fuori dall'Alto Adige, non pensi che questo personaggio che parla veramente come Sturmtruppen, è incredibile, possa un po' rinfocolare questa definizione del cruco un po' sudato, un po' ignorantone, quello sempre col grembiule blu? Come lo vedi tu, per esempio, hai dato interviste nel Veneto, ti avranno chiesto? Mm-hmm. Come lo vedono loro da fuori? Beh, come lo vedono, come lo vediamo noi. Non va dimenticato che questo romanzo è ambientato negli anni 70. Stiamo parlando quindi di 40 anni fa. E quindi, o quasi 40 anni fa, perché qua si parla del 77 e 78. E quindi, ad esempio, se pensiamo a Bolzano, no? Io mi ricordo che nell'81 sono nato a Roma, per no, che Roma, ero a Milano per lavoro e non so per quale motivo ho preso il taxi, perché solitamente vado sempre in macchina, comunque avevo preso il taxi. E allora il tassista mi fa, parlando, no? Lei da dove viene? Dico, da Bolzano. Ah, Bolzano, le bombe, no? Perché lì 80-81 c'erano state quelle bombe in piazza Mazzini, in quell'epoca là. Anche la Rai. E dico, guardi che Bolzano non è Beirut, cioè, ma Bolzano è lassù, cioè, Bolzano in pratica non la conosceva, non dico che non la conoscesse nessuno, però la conoscevano in pochi. Come noi conosciamo Isernia o conosciamo Campobasso, così gli altri conoscevano Bolzano. Cioè Bolzano non era conosciuta. Fine anni 60, inizio anni 70, Bolzano non se la fidava proprio nessuno. Poi Bolzano in questi 30-40 anni ha avuto soprattutto 3-4 grossi eventi, comunque fenomeni che l'hanno fatta conoscere. Intanto il fatto che dei presidenti come Pertini o come Cossiga fossero venuti sempre nella nostra terra, in Alto Adige. Poi il discorso che le squadre di calcio più rinomate, dalla Roma al Milan e altre squadre ancora, soprattutto Milan che andava a Brunico, che andava a Bipiteno, ma anche la Roma, e si portavano dentro scherma migliaia e migliaia, migliaia di tifosi, soprattutto d'estate. Quelli vedevano le nostre bellezze e qui e là scoprivano Bolzano, scoprivano anche gli altri capoluoghi. Poi va detto, magari di Az si potrà parlare male, ma l'idea che ha avuto di fare il mercatino di Natale nel 90, beh, tu puoi parlare con... osteggiato dai bolzanini del centro. Da tutti, ma bisogna dire, tu vai dappertutto, che sia Rimini, che sia Napoli, che sia... a Bolzano il mercatino di Natale, o ci sono stati direttamente o c'è stato qualcuno della famiglia o qualcuno gli ha parlato. Cioè, però siamo considerati sempre un po' esotici, siamo quelli che dove insomma l'italiano è un po' una roba un po' così, cioè non siamo i trentini. Trento è già una città italiana, Bolzano è quella roba strana dove intanto arrivi e ci sono delle doppie, doppia lingua, Tu vuoi dire, scusami, qual è la differenza tra Piazza Walter e Piazza Duomo a Trento? Abbi pazienza. Cioè, adesso non nella, è per parlare dei trentini male, dei trentini qui, però la città centro di Bolzano è veramente bello, ha qualcosa di asburgico, ha qualcosa di... Infatti sì. Tu vedi quando vai in centro, soprattutto di domenica poi al mercatino, tu vedi appunto gli italiani, i turisti, no? Dai veneti, cioè, sono lì che fotografano e dici, cazzo, cosa fotografa? E tu vedi che sta fotografando l'Ercola, i gerani, no? Ma tu mi spieghi perché il turista, scusate la divagazione, ma perché il turista italiano al mercatino di Bolzano di Natale si mette in testa un cappello da cervo, così non lo farebbe a Canicattino, no, non lo farebbe nessuno, colosso bianco, cioè, è perché siamo un po' diversi, siamo un po', si sentono già in Lapponia, capisci? No, è vero o non è vero? Girano con le corna, sì, tu ci guarda che sei lì con tua moglie, giri con le corna, stai attento, non ci hai pensato. A proposito di moglie, parliamo un po' di donne. Ah, Dio, sì, lo so. Ah, se lo sai che questo è il... Mi hanno già scritto, vedi. Allora, ci sono delle donne in questo romanzo. C'è Margit, c'è Monica, c'è Lucia, c'è Maria, c'è Gudrun. Hanno tutte dei ruoli, le segretarie. Ecco. No, Margit è impiegata alle poste, che già mi sembra un po' più elevato. Però le altre sono tutte segretarie. Ma Monica, che non solo è segretaria dell'amministratore, quindi si sente un attimino più su, ha un ruolo più orizzontale che verticale, che bisogna dire molto attuale, perché cioè, lei passa per un'altra via per il suo successo personale, non gli va tanto bene. E già qui è anomalo rispetto a ciò che succede, perché mi pare che alle altre va tutto benissimo, a lei non va tutto bene. Allora io ti faccio una domanda un po' più buona. Ma queste donne che avevano questi ruoli veramente, insomma, mai dirigenziali, sempre un po' così, veramente la segretaria carina che mette i fiori sul tavolo dell'amministratore, no, secondo te avranno fatto carriera in questi anni o saranno ancora lì? Nelle aziende, com'è? Andiamo un pochino meglio, darci una speranza. Guarda, tu non dimentichi mai che stiamo parlando degli anni 70, va bene? Allora, tu lo sai meglio di me, le lotte che hanno fatto le donne, eccetera. È stata dura, sì. E siamo ancora a ruolo orizzontale, però, scusatemi. Io dico sempre, io accetto la superiorità delle donne, basta che non mi parlino più di uguaglianza. Ma ci sarà stata una anche negli anni 70 che aveva un attimino un ruolo un po' più... Le hai proprio sistemate tutte a fare le segretarie? Ma negli anni 70 era così, tu dimmi quali tutte. Donne... Non dico tutto, ma non dico... Cioè, non c'era una Marcegaglia negli anni 70, non c'era una Merkel, non c'era neanche una Thatcher. Chi c'era negli anni 70? Neanche la Golda Meir, penso che fosse fine anni 70 o inizio anni 80. Cioè non c'era nessuna donna a livello né politico né economico di alto livello. Citami una negli anni 70. Ah, non lo so. Ah, appunto. Non mi ricordo. Questo stiamo parlando. Che scusa banale. Golda Meir, forse era più fine anni 70, no, c'era anche negli anni 70. No, diciamo che sei stato tu che hai la responsabilità di aver sistemato tutte le donne come segretarie, ecco. Comunque a livello economico, effettivamente, a livello economico ce n'erano più poche, sì, me ne ricordo. Sì. Qui c'è un punto, pagina 54, dove tu parli della situazione italiana, che è naturalmente quella degli anni 70, questo è chiaro, e dice, pensa a quello che succede in Italia, oltre all'inflazione galoppante, un'economia di Stato fallimentare, a dei governi che mediamente non riescono a durare nemmeno 2 anni, alla corruzione dilagante, alla mafia, al meridione che è la palla al piede del nord, che altrimenti potrebbe essere l'economia più ricca d'Europa, hanno anche poi la piaga sociale, insurrezione comunista e attentati, che questo è proprio riferito al periodo. Io mi sono chiesta, ma per scrivere questo paragrafo qui, hai pensato alla situazione di adesso? Non è che sia molto diversa. Appunto. Infatti no. Ti sei ispirato? No, non mi sono ispirato. L'ho scritta come era una volta, ma poi dopo rileggendola mi sono accorto che effettivamente grosse differenze non ci sono. La mafia c'è come c'era 40 anni fa, la corruzione dilagante pure, nonostante ci fosse stato appunto il 92. Sicuramente i comunisti al potere non ci sono come non c'erano allora, anche se era un altro, era un'altra cosa. Sì, forse è migliorato comunque, diciamo, l'atteggiamento dei germanici nei confronti dell'Italia, e tu non devi dimenticare che comunque questo pensiero l'ha espresso il signor Bert, no? Esatto. Ecco. Che c'è anche scritto che lui era un amico del Franz Josef, no? Strauss, e quindi lui era proprio di destra, mentre il suo fidato amministratore, il signor Stumpfer, si capisce che invece parteggia per la SPD. E questo era quello che all'epoca comunque i tedeschi pensavano degli italiani, no? Se ricordiamo anche il discorso della pistola fumante nel piatto degli spaghetti pubblicata da Spiegel in prima pagina negli anni 70, cioè noi capiamo cosa i germanici, cosa i tedeschi pensassero dell'Italia. E non è che pubblichino delle cose migliori adesso. No, ma Spiegel non parla mai bene degli italiani, ne parla proprio ultimamente. Io leggo Spiegel perché mi piace leggerlo, ma se può parlare male dell'Italia e degli italiani in generale lo fa. C'è anche un pezzetto di Wertz, se non sbaglio, che parla un po' di quello che erano gli stereotipi dei bavaresi, in questo caso sui sudtirolesi. Dice questi stupidi sudtiroler nostalgici. Aveva ragione Hitler, non sono né carne né pesce. Questa è una cosa abbastanza pesante anche, no? Come... Mm-hmm. Solo attaccati alla loro Heimat, buoni a coltivare mele e a mungere le vacche. Per non parlare degli italiani, che da Roma in giù sono tutti mafiosi, proprio come ha illustrato Spidi. Ci vorrebbe uno come Di Biasi, madre di lingua tedesca e padre italiano del nord Italia, il rigore germanico sposato alla fantasia italiana. Ecco la ricetta vincente che incarnava Di Biasi. Sì. Allora, qua ci sono due concetti differenti, no? Uno è proprio lo stereotipo del sudtirolese, così, insomma, che non ha tanto valore per un bavarese. Dall'altra, però, c'è un elogio alla potenzialità del mistilingue, che negli anni 70, secondo me, invece era proprio punito il mistilingue, cioè tutta la lotta che è stata fatta anche sul censimento, no? Invece io mi sono stupita di come un bavarese può elogiare, che forse è in una logica puramente commerciale, ecco, aziendale. Sì, esatto. Questo ecco, discorso, solo questo. Infatti lui per questo lo intendeva. Tanto è vero che Bolzano, e in realtà anche l'altro Adige, è sempre stato in pratica un ponte tra le aziende germaniche e, diciamo, il mercato italiano. Allora, tutte quelle, non tutte, ma quasi tutte, comunque la maggioranza delle aziende tedesche che volevano conquistare il mercato nazionale, il mercato italiano, dove andavano? Andavano proprio là dove si parlava anche il tedesco, perché così c'era una comunità di lingua, una comunanza, si potevano capire, si potevano espandere, poi dopo si espandevano in città come Milano, come Verona, come Roma, eccetera. Ma questo in generale, i tedeschi che sono sempre stati portati verso l'export, lo facevano anche con gli altri paesi, tanto vero che è anche citato nel romanzo. Ad esempio, se volevano conquistare il mercato francese, spesso aprivano delle aziende a Strasburgo, dove si parla il tedesco. Se lo facevano in Olanda, lo facevano a Haag, dove anche là si parla tedesco, e anche in Belgio, e in Austria neanche a parlarne, ovviamente in Svizzera, andavano ovviamente alla Svizzera tedesca. Quindi effettivamente questo passaggio è dovuto unicamente a una concezione economica, cioè non c'è interesse. Poi invece io ho ricevuto, diciamo, anche delle mail relative al discorso di Hitler, no? Che sì, l'ho visto qua, sì. Sì. No, Hitler in pratica aveva venduto l'Alto Adige, lo sappiamo benissimo, e quindi lui dell'Alto Adige non ne fregava niente, perché col patto con Mussolini, in pratica lui il confine l'aveva determinato il Brennero, e chi voleva, poi sappiamo benissimo tutte le tragedie che ci sono state dopo, chi voleva se ne andava fuori Germania, altrimenti restava qua, doveva restare italiano, cioè di venire italianizzato sotto il fascismo. E quindi chi pensava che Hitler volesse avere l'Alto Adige, tutti quelli che l'avevano accolto con grande entusiasmo, invece erano rimasti delusi da questo punto di vista. Qui in fondo, nell'intervista che Rascher dà al Corriere della Sera dopo la sua metamorfosi culturale, ecco, scusa, anche qua devo dirti una cosa, è stata un po' una forzatura, sono primo ad ammetterlo, perché è un po' veloce, è un po' se troppo potessi veloce. Cambiare in 6 mesi tutti quanti è un po' veloce, perché uno non è che possa cambiare così repentinamente, velocemente in 6 mesi. Ma d'altronde volevo dare un'impostazione anche un po' veloce e rapida, perché per far capire, insomma, che siccome il Bert, il big boss, aveva dato soltanto 6 mesi di tempo per dare un'impronta alla società, lui in questi 6 mesi avrebbe dovuto appunto capovolgere tutta la situazione. Non è impossibile, diciamo, ma... Però questo, insomma, denota anche una bella forza di carattere, no? Certo. Perché la testa dura è la testa dura, e quando ci si impunta su una cosa la si porta a termine. E come no? Dice lo stesso protagonista, wo ein Wille da ein Weg, no? Ecco. Ho visto qui nell'intervista che c'è un appunto contro i giornalisti. Sì. Proprio zacchete, eh? Allora, incompetenti, ignoranti, settoriali, cioè, ma che tipo di esperienza hai avuto con i giornalisti e come mai li hai così proprio, devo dire, cretini, gli dai dei cretini in pratica? Non è che io sia contraria, perché di cretini, insomma, però penso che i cretini ce n'è dappertutto, sì, sì. Cioè quelli li trovi, sì, sì. Crescono come equamente distribuiti. Sì, sì. No, il fatto è che, ad esempio, mi è successo un paio di volte quando anni addietro anche hanno scritto un articolo, ci sono stati 2 o 3 giornali che hanno scritto un articolo su una mia azienda. Beh, c'erano delle diversità pazzesche, eppure io avevo detto a tutti e tre, in questo caso era il Mattino ancora, il Mattino di Bolzano, che si chiamava Mattino, credo, sì. Scrivevo io, sì. Per il Mattino. Ah, ecco, ma non c'hai tu comunque. Come no. Chiami? Il Mattino, poi dopo c'era l'Alto Adige, il terzo era... Ah sì, il cretino, esatto. E in pratica erano venuti tutti e tre per una questione, perché, vedi, visto che si parla di donne, negli anni 90, anzi negli anni 80, io come venditrice avevo solo donne. Poi sono, però il capo era lui, eh. Cioè, sembra evidente, siamo sempre lì. Scusa. Avrei dovuto vendere una venditrice alla mia azienda per poter dire che, scusami, non ho capito. Comunque, voglio dire, questo appunto aveva creato un po' di attenzione, e allora tutti a fare questo articolo sulla ditta che si rivolge unicamente a un mercato maschile, ma tramite venditrici. Oh, hanno scritto delle cose, io ho conservato ovviamente tutti e tre articoli, ma non sembrava neanche la stessa ditta, cioè numeri sbagliati, posti sbagliati, date sbagliate, cioè riferimenti... Questa è stata la tua vendetta allora? Avranno capito. Della vendetta parlavo un'altra volta. Un'altra cosa molto carina, sempre in questa intervista di Rasha, lui dice: uno scrittore che parla dei suoi libri è insopportabile quanto una madre che parla dei suoi figli. È vero. Io già l'altra volta ho detto, io parlo sempre dei miei figli, lui parla dei suoi libri, siamo due insopportabili. Noi siamo due insopportabili. A questo punto. Ma non so se tu devi promuovere i tuoi figli, io devo cercare di promuovere il romanzo. Io promuovo sempre i miei figli. Mi sembra logico. No, ma non è facile ogni tanto parlare dei propri libri, perché presentazioni le ho fatte anch'io dei miei libri, però lasciavo parlare gli altri perché mi imbarazzavo a parlare di quello che io avevo scritto, no? Perché se io rileggo, non so se questo capita a te, se io leggo un mio libro mi verrebbe da correggere continuamente qualche cosa, per cui lo devo abbandonare e dimenticare. Io no, io proprio non correggo più nulla. Perché l'avevo letto 200 volte. E ma non ti viene 20... se tu leggi? No, non più. Non, basta. Non più. No, no, perché è come se fosse un capitolo proprio chiuso. Anzi, no, ho letto proprio ultimamente un'intervista. Anzi, ho sentito un'intervista da Donna Leon. Che diceva appunto che nel momento in cui lei ha finito un libro, poi dopo che l'ha finito veramente, dopo averlo letto 10, 15, 20 volte, perché dopo trovi sempre qualcosa. Continui. Lei pensa già al prossimo. Cioè lo ha archiviato, mentalmente archiviato, e non ne vorrebbe neanche più parlare. Ecco. Anch'io devo dire francamente, adesso ho già in lavorazione il secondo, che non c'entra niente con questo tipo di discorso che ho fatto qua con Fior d'Italia. Ecco, di questo puoi anche parlarci un po'. Sì, sì. No, volevo dire che quando ho scritto il libro, l'ho scritto anche di getto, perché l'ho scritto di getto, e però poi dopo ci ho messo 3 mesi a rifilarlo, a rifinirlo, a correggerlo, e questo non mi piace, e sposta un capitolo qua, e sposta una frase là, e poi dopo... Sempre di notte, Sempre di notte, è un animale notturno, scrive di notte. Finché dopo a un certo punto ho detto no, adesso basta, perché sennò... Ecco. Sennò non si finisce no, più. No, sennò non si finisce più. E se tu mi chiedi cosa pensano gli altri del libro, eccetera, io devo dire francamente... che quasi tutti che l'hanno letto l'hanno trovato avvincente, l'hanno trovato bello, l'hanno trovato interessante. Ho avuto molte recensioni, ho avuto delle telefonate, mi ha scritto anche Liguori, ex giornalista Rai, mi ha scritto una recensione bellissima che voglio poi dopo pubblicare anche sul mio sito, e l'ha trovato anche molto interessante. E quello che a me interessava però era capire cos'è che fosse piaciuto del mio libro ai diversi lettori. Allora tu scopri che tu hai un prodotto, tu hai una cosa, la fai vedere alla gente, come qua adesso possono essere 20, 30, 40 persone, e ognuno però ha un'interpretazione diversa. Allora io mi ricordo di una frase che ho sentito, che la verità assoluta non esiste, la verità è una questione di interpretazione. Ti cito una cosa gustosa, ho appena fatto la fiera a Bologna. Alla fiera di Bologna con la mia ditta, con la ditta Carcos, dove arrivano tutti gli operatori, eccetera, operatori internazionali, operatori italiani, i nostri clienti, eccetera, e avevamo un bello stand, e una cosa che faccio sempre, perché è una fiera biennale, metto un grande contenitore di vetro, e in questo contenitore di vetro metto una volta dei fagioli, una volta dei ceci, una volta delle farfalline di pasta, eccetera, no? Li riempio. E poi dopo faccio il gioco Carcos, cioè faccio il gioco. Cioè, come Raffaella Carrà, era lei con i fagioli però, sì, eh? Insomma, no, ti stavo dicendo, Allora, uno che più si avvicina al numero che c'è dentro vince, certo, il premio. Ecco. Certo. Beh, allora, il contenitore è lo stesso per tutti. Lo vedono tutti. E sono lì che studiano, contano. Poi dopo c'era gente che faceva, sai, proprio un metro per misurare la circonferenza. C'è chi ha scritto il numero più basso, ha scritto 890, e c'è chi ha scritto 1.000.000. Da 150.000, 80.000, 12.000, 18.000, 25.000, 6.500, 6.000. Poi i fagioli dentro erano 11.860, no? Non chiedermi se li ho contati tutti, lo so, va bene? No, mi chiedevo se li ha contati mamma. Quindi, no, ma solo per dirti, ruolo delle donne. La questione dell'interpretazione, no? Cioè, sì, sì, tutti sì, lo sì. vedono, perché tutti abbiamo gli occhi per vedere questo contenitore, però c'è un gap pazzesco di valutazione, no? Su una cosa reale, perché è reale, non è una questione di interpretazione, diciamo, è un'interpretazione visiva al limite, ma non è una questione di interpretazione, diciamo, è. Ecco, quindi solo per dirti, è la stessa cosa del romanzo, io chiedevo sempre, ma qual è il personaggio che più vi è piaciuto, no? Allora, chi diceva Di Biasi? Chi diceva Russell, chi diceva anche Bert. Ma le devi vivere queste cose, le devi sentire, ti deve trasmettere un personaggio, è lì che poi entri nel libro, no? Quindi è chiaro che ognuno lo vive in una maniera personale, soggettiva, no? Sì, per esempio, qual è il tuo personaggio preferito? Il mio? Sì. Bert. E perché? Perché è un uomo che ha avuto successo, è un uomo che comanda con rigore, ma anche con mano dura, con mano severa, ma anche con un pizzico di comprensione. È un uomo che è stato colpito dal destino in modo molto pesante e molto duro, è un uomo colto, un uomo intelligente, e quindi sicuramente un esempio, ed essendo un esempio, diciamo... Quanto di te c'è in Bert e quanto di Bert c'è in te? Niente? No. Non mi sono non ti sei autodescritto in un personaggio neanche un po'? No, io posso dire una cosa, che rispondendo a questa domanda che mi hanno fatto anche, se questo è un romanzo autobiografico, cioè, no, allora non può esserlo ovviamente, anche perché non sono morto, non sono deceduto, quindi il primo... Ma non sono mica, non è mica fatti fuori se, tu? No, non li ho fatti fuori, beh, due su tre, due, diciamo... Due, uno e mezzo, diciamo. Uno e mezzo, non si sa se l'altro si è salvato, sì. Ma comunque, no, il discorso è che io credo che non in romanzo ci siano delle note autobiografiche, ma non neanche dirette, forse anche indirette, per quello che hai sentito, per quello che hai visto, per quello che ti è stato trasmesso da altri. Quindi un po' di autobiografia c'è. Poi, chiaramente, se tu che vivi e quindi tu trasmetti il tuo pensiero, e poi dopo vedi se c'è la rispondenza anche negli altri. Comunque, io credo che un romanzo, per quanto possa essere avvincente, per quanto possa essere anche appunto romanzato, cioè proprio tirato giù dalla fantasia, fantasioso, deve sempre avere un minimo di credibilità. Perché se non ha credibilità, anche perfino un romanzo fantascientifico, secondo me, deve avere un humus di credibilità, altrimenti ci si stufa, no? Perché se una cosa non è credibile non la puoi neanche prendere in considerazione. E penso che sia piaciuto anche per quello, perché a parte il fatto che ci sono pochi romanzi in giro che parlano di lavoro, anzi, ovviamente, questo mi è stato detto anche a un talk show al quale ho partecipato, che hanno detto appunto che questo è il primo romanzo che lo vedo ultimamente che tratta proprio del romanzo, cioè un romanzo che tratta dell'ambiente di lavoro. In realtà tutti noi lavoriamo, il lavoro fa parte di una buona fetta della nostra vita. E quindi mi fa strano che si parli soltanto dell'amore, dei sentimenti, romanzi storici, fantascientifici, adesso va tanto il romanzo giallo, va tanto il horror, ma... Fantasy. I vampiri, esatto. Adesso dopo i vampiri sembra che vengono fuori gli angeli, adesso c'è la nuova cosa degli angeli, ma in realtà... Comunque. No, è vero che non ce n'è, insomma. No, non ce n'è, ce ne sono pochi, non so. Romanzo ambientato nel mondo del lavoro. Penso che ho avuto anche lì una recensione da parte di un venditore che aveva anche letto il mio romanzo, e fa: questo primo romanzo dove io mi sono proprio specchiato, perché è quello che facciamo noi, giorno per giorno che usciamo con la valigetta, giorno per giorno che andiamo a vendere, e poi dopo ci sono quelle canaglie su, mi intendevo ovviamente quelli agli alti piani, che se le suonano di santa ragione, che si fanno ripicche, che cercano di figurati, è un romanzo coinvolgente per chi è al di fuori di un'azienda, figurati per chi quella vita l'ha fatta e la fa. Questo è no, ma questo era proprio un editore, sì, questo appunto, è proprio un editore, me l'ha detto, se non si sente. Tu che hai, insomma, hai contatti, hai dato interviste, eccetera, al di fuori dell'Alto Adige, sì. No, noi sappiamo tutti che, e lo vediamo ogni giorno al telegiornale, che gli italiani non sanno pronunciare la lingua tedesca, proprio sono proprio. Cioè, è una cosa che ogni tanto fa male il cuore perché lo leggono all'inglese, eccetera. Tu hai piazzato dei cognomi veramente belli, tosti, tedeschi. Sì. Te li leggono all'inglese? Perché mi piacerebbe sapere se non so perché non me l'hanno, se non me li hanno letti. Ti dicono no, non li hanno, non... Kruger. No, questo sarebbe carino, no? Sì, no dei nomi stessi non hanno parlato, facevano difficoltà anche a leggere Furt Italia, ecco, appunto, perché già qui Furt Italia, sì. Cioè, facevano veramente difficoltà a leggere da solo il titolo, ma non è che si sono addentrati poi dopo nei nomi stessi. Adesso ti racconto una piccola cosa, faccio una premessa. Il Klaus De Biasi all'inizio del libro muore al suono di una musica che per me è fondamentale della mia vita, che è Let It Be dei Beatles, con cui insomma siamo cresciuti e ci siamo aperti i paraocchi. Dopo aver presentato il tuo libro alle cantine Gandolfi, io sono partita per Vienna ed ero in autostrada da sola e avevo la radio accesa e ho incominciato Let It Be. Beh, mi è venuto un colpo perché ho detto no, non è possibile, se questo si è schiantato cambio canale. Solo per dirvi qual è stato l'impatto di questo libro su di me. Sì, ma in realtà diciamo che il libro, il sottotitolo è il vero titolo del libro, sì, cioè ecco, di è il destino, no? Il destino che forgia gli uomini, e uomini come Berto, come lo stesso Stumpe, che non ci credono, ma poi dopo riflettono, lo stesso Berto che dice ma forse dobbiamo essere più umili e pensare che c'è un destino, che non possiamo fare tutto quello che vogliamo, oppure che non dipende proprio direttamente da noi. E quindi c'è questo fil rouge del destino che parte dall'incidente del primo protagonista, per finire al secondo incidente con il secondo protagonista, e però ci sono altri episodi nell'ambito del racconto che parla di episodi di destino, come questo del Klaus De Biasi, oppure del figlio del Bert che muore in bici, cade, che è quasi fermo e va a sbattere con un unico punto mortale, in pratica a tempia, sul marciapiede. Quindi, quanto secondo te l'uomo può cambiare o influire sul destino? Questa è una domanda da mille una volte, è difficile dirlo. Oppure quanto il destino, puoi anche girarla, quanto il destino influisce su quello che è poi la tua crescita, perché questo secondo me è... Beh, allora bisogna sempre fare in modo che il destino non ti funga da alibi per diventare fatalista, dico questo, anche se tu ci credi, perché qualcosa devi pur sempre fare. Io francamente anch'io non ci credevo tanto al destino, devo dire, invece anche a me sono successe delle cose per cui... Forse è qualcosa di vero, cioè, ma... Io penso che sia una questione talmente individuale per cui è come la fede, no? Cioè tu credi o non credi. Il destino è uguale, tu credi o non credi. Cioè è un dono? Per chi ha la fede è un dono. Per chi non ce l'ha non è un dono, capito? Non la vedo in questo modo, cioè... Sono dei discorsi metafisici che poi dopo diventano però anche molto difficili. Cerca sempre di intervenire sul destino o di anticiparlo o di cambiarlo anche se poi non ci riesce, cioè questa ma è la forse tendenza, forse la sua vanità che glielo fa credere, perché in realtà c'è la filosofia che dice che il destino è già segnato, quindi lui nulla può contro il destino. Infatti diciamo che il principale pensiero è proprio questo, no? Noi vediamo un protagonista che cerca di fare di tutto per, e poi dopo è vanificato tutto da questo destino. Io vorrei sapere se c'è qualcuno di questo bravissimo pubblico silenziosissimo che ha qualche curiosità invece per chiedere al nostro autore. Sono tutti amici, conosco. Te l'avranno chiesto qualche cosa, magari una cosa non te l'hanno voluta chiedere. No, io do la parola anche per correttezza, no? Sì, giusto. Ecco, vedi? Il nome, il titolo. Fiord Italia, sì. Il destino gioca dadi, eh? Che relazione c'è con la nostra azienda alla Tesina? Ma diciamo che è una mia fantasia, perché tanto è vero che è chiaro che Fürth, subito uno pensa alla Wirth, ma in realtà se si pensa Fürth, infatti c'è scritto anche nel romanzo, è una città molto conosciuta in Germania, che adesso è diventata una città satellite di Norimberga, ma una volta era un po' più distante, ormai fa parte proprio della cintura di Norimberga, e ci sono molte aziende che proprio da Fürth sono partite e sono scavate giù in Italia. Ma anche Chiesa del Sau è anche la sede, no? Come dice? Chiesa del Sau è anche la sede originaria della Wirth. Sì, ma si chiama Künzelsau e non sta in Baviera, che io sappia. Sì, non ho accordo. Poi è chiaro che qualche analogia ci può essere, insomma, che come ho detto anche nel romanzo stesso, diciamo che tutti i personaggi sono inventati di sana pianta. Poi è evidente che ci possono essere delle analogie, perché è chiaro, ma se guardiamo anche nelle grandi aziende, le analogie sono più di quelle che uno possa pensare, perché l'impostazione poi dopo sostanzialmente è sempre la stessa. Abbiamo, quando ci sono tanti venditori, abbiamo sempre una concezione piramidale dell'organizzazione, per cui c'è il capo supremo, poi dopo ci sono due o tre direttori, poi ci sono i capi area, poi ci sono il capogruppo, poi c'è la truppa che è appunto costituita da tutti i venditori e da tutti i dipendenti. Allora io credo, se tu non vuoi aggiungere qualche cosa che ti... No, io vorrei ringraziare innanzitutto te, che ti sei preso l'impegno per venire qua, la seconda volta, ti sei stufata, lo so, mi immagino. Non ti importunerò più. No, sei stata molto gentile, molto brava, peraltro tu che l'hai letto anche il romanzo, mi sembra che l'hai anche riletto in parte, hai giustamente anche trovato fuori le posizioni giuste, i passaggi giusti, quindi io ti ringrazio perché veramente Maurizio è un'amica. Ringrazio anche tutti voi che siete intervenuti, parte dei quali già la seconda volta, se non addirittura la terza, quindi basta così. Io ho cercato di fare di tutto per promuovere il libro, il romanzo, penso che comunque mi sia riuscito perché un certo riscontro ce l'ha e adesso vediamo se va bene, va bene. Cioè, non ne faccio malattia perché ovviamente è un hobby e come tale deve restare. Volevi dire qualcosa su quello che stai scrivendo? Sul nuovo, una piccola chicca, un'anticipazione, non svelare, però... Ti svelo sotto titolo. Non è il sequel di questo no, romanzo. No, ecco, non questo c'è già niente. Diciamo. Il sottotitolo sarà, come qua, Il destino gioca dadi, il sottotitolo è La fotosintesi del dolore. Cioè, l'idea di fondo è questa, che il dolore, non si deve reagire al dolore. Il dolore lo si deve elaborare e lo si deve elaborare in un processo lungo, sentito, ed è un po', ecco perché chiamo la fotosintesi, perché la fotosintesi, tu lo sai, è il processo chimico vitale che ci consente di essere qua in vita a questo mondo, e il dolore deve essere appunto elaborato come un processo, proprio sezionato, ricostruito. E da questo si può andare avanti e si può avere una nuova vita. Su questo possiamo discuterne dei giorni e delle settimane, io e te. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Flambaggio, qui ci sono dei libri, se qualcuno è ancora senza, se qualcuno è ancora senza, può averlo qui. Grazie Maurizio.